Grazie Betta, va bene, ci sto. La pizza va benissimo, una capricciosa. Adoro i funghi e tanto formaggio. Da bere per me una birra. Porto il gelato al pistacchio per dolce, va bene?